L'ultima volta che io ho pesato 55 kg facevo la seconda elementare. Quan caloms fatera, la donna la vembela. Non ce ne ho uno marchigiano, mannaggia. Evita il buco di fame a metà mattina e quindi... Per me che ce l'ho tutte le ore, cosa devo fare? Anch'io, lasciamo perdere. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E rieccoci, cuore e denari insieme anche in questo giorno di festa, tutti santi, quindi buon onomastico a tutti, anche il mio che non ce l'ho. C'è Santa Nicoletta? No, non credo, ma io festeggio San Nicola e il 6 di dicembre, quindi segnatevelo, si accettano auguri di cuore. Ah, perché è un piccolo presente un po' più materiale, lo disdegneresti? Non so, Deborah, devo pensarci. Attivo il cervello, vedo se oggi gli piace di più il cuore, inteso come emozioni, affetti, relazione, oppure i denari, concretezza, guadagno, razionalità. Eh beh, a volte al cuore non si comanda e non credo di dover essere io a dirtelo. No, sicuramente, ma sono pronta a stupirti perché oggi ti dirò come il cervello guida le nostre scelte, non solo di cuore, ma anche economiche e più materiali, insomma, legate ai danni. Guarda che dopo 3 settimane inizi anche a darmi qualche soddisfazione, perché tuo malgrado, non lo sai, ma stai parlando di finanza comportamentale, vero professor Paolo Legrenzi? Certo, è verissimo, perché la finanza comportamentale è proprio l'intreccio tra il cuore e la razionalità. Tutto dipende dal nostro cervello, però non sempre il nostro cervello ci guida bene, diciamo così. Lei ha ragione, professor Legrenzi, ma rischio, incertezze, paure, rimpianto, errori, non possiamo negare che con queste parole ci facciamo i conti tutti i giorni nelle nostre relazioni. Certo, facciamo i conti tutti i giorni, perché le paure sono di tutti i giorni, i rimpianti sono di tutti i giorni, più grandi e più piccoli, e naturalmente anche l'incertezza di tutti i giorni, e d'altronde anche le sorprese sono di tutti i giorni, non sono sempre negative. Diciamo che professor Legrenzi, sono compagne della nostra quotidianità. Sì. Ecco, diciamo che c'è un particolare aspetto della nostra quotidianità o della nostra vita, che è la gestione dei nostri risparmi, che noi facciamo per battere l'incertezza del futuro, avere un po' di riservette da parte per essere più, diciamo, invulnerabili alle sorprese non sempre positive del futuro. Ecco, in questo specifico campo, come cerco di spiegare nel mio ultimo libro, non siamo molto bravi, siamo stati progettati dall'evoluzione naturale della nostra specie per fare cose diverse. È un fenomeno molto recente e non siamo attrezzati. Avremo modo di approfondire questi concetti, professor Legrenzi, per tutta la durata della trasmissione, ma naturalmente non lo abbiamo presentato, forse è il caso di farlo, perché spieghiamo per quale motivo ha titolo di parlare di questi argomenti. Il professor Paolo Legrenzi è coordinatore del laboratorio di economia sperimentale Swiss and Global all'Università di Venezia. Ma in linea con noi abbiamo il piacere di avere anche la dottoressa Monica Piccinni, buongiorno, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Mi unisco un pochino a quello che stavate appena dicendo, facendo un commento, come dire, importante. Sono già le 11 del mattino e in base a quello che ci siamo già detti, sicuramente la nostra giornata è iniziata affrontando tantissime situazioni, anche tanti imprevisti, in cui ci siamo trovati e in cui abbiamo dovuto, come dire, sentire anche delle emozioni particolari, come quelle appunto dell'incertezza, del rischio, no? O del fatto di poter commettere degli errori. Pensiamo per esempio al fatto di aver perso la coincidenza giusta per arrivare al lavoro, di doverci trovare davanti alla scelta di prendere quella successiva e poter magari fare ritardo piuttosto che cambiare invece soluzione con un taxi piuttosto che con un'altra appunto soluzione che ci può far arrivare all'obiettivo in maniera più efficace. Dottoressa Piccinni, a volte anche le scelte di cuore sono in realtà di interesse. Sposati un bravo ragazzo nei tempi di crisi è diventato sposati un buon partito. Con la differenza, Deborah, però, che ora la raccomandazione va bene sia per gli uomini che per le donne. Esattamente. Abbiamo allora tante cose da raccontarci, direi di partire. Certo. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi presenta Salva Danaio. Ed eccoci qua, allora oggi parliamo di come il cervello guida le nostre scelte, anche finanziarie. Il primo ospite con cui ci interroghiamo su questi argomenti è il professor Paolo Legrenzi. Il titolo del suo libro, professore, mi ha fatto fare bella figura con Deborah. Perché gestiamo male i nostri risparmi? Ma mi spiega bene che cos'è la finanza comportamentale? La finanza comportamentale è lo studio dei comportamenti concreti che la maggioranza delle persone esibisce, adotta, sceglie, quando deve fare delle scelte finanziarie, cioè delle scelte legate se risparmiare, se consumare, ma soprattutto dove mettere i propri risparmi. E questa è la finanza comportamentale. Perché comportamentale intanto? Perché studia i comportamenti delle persone. E perché bisogna specificare questo? Bisogna specificarlo perché la finanza classica studia invece dei modelli matematici più legati ai prodotti finanziari, a quelli che vengono venduti alle persone per mettere dentro i risparmi. Invece quelli che studiano la finanza comportamentale studiano i comportamenti dei risparmiatori e lì che casca l'asino, diciamo, per così dire. Tra l'altro, professor Legrenzi, va anche forse ricordato che è una disciplina relativamente recente, c'è stato anche un premio Nobel, no? Che è stato assegnato proprio per gli studi in questo campo. Esattamente, nel 2002 è stato, gli economisti hanno accettato ufficialmente, diciamo, questo settore di integrazione del loro sapere, hanno dato il premio Nobel a uno psicologo, si chiama Daniel Kahneman, ancora vivente a Princeton, e per la verità anche quest'anno hanno dato un premio Nobel a un professor Schiller, che a quei tempi era a Princeton, e che anch'esso in fondo ha studiato gli aspetti psicologici del risparmio, cioè ha studiato come si muovono i mercati finanziari, come si muove il valore delle azioni, ad esempio, mostrando che il valore delle azioni riflette variabili psicologiche e non soltanto gli utili delle aziende a cui corrispondono quelle azioni. Allora, ritorniamo adesso alle parole chiave che ci faranno da guida nel corso della trasmissione. Che sono un po' le stesse parole con cui ci misuriamo nelle scelte di ogni giorno, di cuore e di denari. La prima è una parola che ci fa un po' paura, con cui ci confrontiamo ogni giorno e che vorremmo evitare. Errore. Gli errori di valutazione si fanno in ogni campo. E a volte ci sbagliamo perché ci illudiamo, prendiamo quella che si dice una cantonata perché abbiamo fatto male i nostri conti, abbiamo puntato sul cavallo sbagliato. Questo vale nelle scelte economiche quanto in quelle di relazione. Sentiamo allora un brano tratto dal libro del professor Paolo Legrenzi. L'illusione non è la stessa cosa di un errore e non è necessariamente un errore, scriveva Freud. Per Freud, gli errori sono una credenza non aderente alla realtà delle cose. L'illusione, invece, è una forma di autoinganno, un errore mescolato al desiderio. Le illusioni sono difficili da smascherare perché la mente le produce in modo automatico e noi non ne siamo consapevoli. Gli autoinganni sono insidiosi perché derivano dal voler credere che le cose sono come noi desideriamo che siano. Per esempio, Colombo voleva trovare una via per le Indie e questa speranza gli fece scambiare l'America per le Indie. Un miscuglio di errori e illusioni ha condotto gli italiani, almeno nel loro complesso, a non investire il risparmio nel modo più efficiente. Ecco i nostri gusti. Prima la casa e gli immobili, che costituiscono quasi 2/3 dei risparmi degli italiani. Quel che resta investito per lo più in ciò che ci appare come vicino, noto, a portata di mano, anzi di mente. E così questa parte restante è costituita da depositi postali, bancari, titoli di Stato, in massima parte italiani. Tutto il resto del mondo è trascurato, se non ignorato. Professore Legrenzi, torno naturalmente ancora a lei affinché ci argomenti un po' meglio quanto scrive nel suo libro. Un miscuglio di errori e illusioni ha condotto gli italiani nel loro complesso a non investire il risparmio nel modo più efficiente. È anche vero che però sbagliando si impara. Sì, è vero. Però quello che cerco di mostrare e di argomentare, e per questo motivo ho introdotto la distinzione tra errori e illusioni, che mentre gli errori sono sulla base dell'esperienza passata facilmente correggibili, invece le illusioni sono molto più difficili da superare. E purtroppo, come dimostra il passo che voi avete letto, gli italiani sono stati, diciamo, potremmo pensare che siano stati patrioti nel mettere tutti i loro risparmi nel paese dove abitano. Invece purtroppo questa versione ottimistica non è così, sono stati semplicemente abbagliati dal mettere i loro risparmi nelle cose che conoscono bene, che sono vicine, le case, le azioni, i titoli di Stato del loro Stato. E questa è una violazione di un principio molto elementare della finanza classica, e cioè di diversificare i nostri risparmi. E siccome i risparmi non immobiliari, cioè non le case, le possiamo mettere in tutto il mondo, sarebbe stato molto più saggio distribuire questi risparmi in tutto il resto del mondo. Le case non è che possiamo spostarle in un altro posto, cioè ad esempio non è che noi possiamo spostare casa nostra in Germania dove adesso le case stanno. Certo. Ma professor Legrenzi, adesso chi, sentendo il suo intervento, si accorge di aver sbagliato, di aver commesso un errore? Beh, naturalmente il complesso risultato finale di questi, diciamo, di essere stati abbagliati nel fare le cose che conosciamo, e questo in larga parte immodificabile. Noi lasciamo ai nostri figli dei risparmi che sono largamente di tipo immobiliare, e siccome i nostri figli avranno mediamente un reddito più basso del nostro, succederà che è improbabile che questi risparmi abbiano un futuro molto florido. Su questo però, non ci possiamo fare illusioni, per venire alla seconda parola. Però c'è ancora molto risparmio non immobiliare, e su quello potremmo intervenire con più lungimiranza di quanto non abbiamo fatto in passato. Sa, in genere, come in tanti problemi della vita, sarebbe bene, come per un idraulico, commercialista, un notaio, un medico, andare da uno che se ne intende. Certo. Invece purtroppo in questo campo molti pensano di intendersene. E vabbè, poi si va magari da quello più conveniente, da quello che ci fa promesse di altro tipo, ma questo è un altro discorso. Però si commettono degli errori, ma con gli errori si fa esperienza per la prossima volta e si vive diversamente. Insomma, dottoressa Piccinni, sbagliando si impara, non è una consolazione, un modo per così darsi una giustificazione, ma l'esperienza insegna. Assolutamente sì, Nicoletta. Allora, guarda, credo che il commettere errori faccia parte proprio della natura umana. Il valore dell'errore nell'apprendimento è stato studiato ormai da molto tempo, da moltissimi psicologi, scienziati, anche perché è alla base di moltissimi dei nostri apprendimenti e dei nostri comportamenti quotidiani. Tieni conto che la maggior parte degli apprendimenti e dei comportamenti si sviluppano in termini di tentativi ed errori, no? Prove ed errori. Quindi noi facciamo qualcosa, questa cosa funziona, quindi è andata bene, ha avuto un successo e noi probabilmente la risperimenteremo nel futuro. Altrimenti, se, come dire, siamo incorsi in un errore, molto probabilmente, se tutto funziona a livello anche di strutture cerebrali che sostengono questi aspetti decisionali, l'errore non dovrebbe ripetersi, tanto che si dovrebbe trovare altre soluzioni opportune naturalmente per arrivare all'obiettivo meta. Come nel labirinto di Skinner, che è un nostro psicologo che si è occupato da sempre di apprendimento negli animali, il topolino naturalmente girando nella gabbietta cercava di trovare il modo per aver da mangiare, e tentando e ritentando, quindi facendo dei tentativi e degli errori, riesce, schiacciando una levetta, ad avere il suo cibo. Questo gli produrrà naturalmente un apprendimento, cioè gli dirà che comportandosi in quel modo riceverà del cibo. Automaticamente il topolino ha appreso, attraverso appunto questo tipo di esperimento, che potrà arrivare ad avere del cibo, quindi una cosa fondamentale per la vita umana. È vero, dottoressa Piccinni, però è vero che sbagliando si impara, perché, come si dice, l'importante non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta. Esatto. Ma l'errore ci brucia. E infatti, professor Legrenzi, volevo ritornare per un attimo al tema degli investimenti. Perché attribuiamo molto più valore, e chiaramente è un valore negativo, ad una perdita di un investimento, piuttosto che attribuire un valore positivo ad un guadagno? Perché per centinaia di migliaia di anni era molto importante questa simmetria, cioè che il dolore, il dispiacere di una perdita di qualcosa, non necessariamente soldi, qualsiasi cosa, di un'entità X, ci facesse più dispiacere di quanto non ci facesse invece piacere, gioia, soddisfazione guadagnare la stessa entità, poniamo di denaro, ma poi necessariamente di cibo e così via. Ed era saggia questa cosa, perché in un mondo molto ostile, con molte poche risorse, la perdita aveva conseguenze molto più negative di un guadagno della stessa entità. Purtroppo oggi ci rende particolarmente malfatti per gestire i risparmi, perché nel caso dei risparmi cosa succede? Succede che una perdita ci fa una paura eccessiva. E siccome siamo guidati dall'esperienza passata, come ha spiegato molto bene la dottoressa prima di me, cosa che è stata super studiata, se noi facciamo investimenti immobiliari come ha fatto la mia generazione nel dopoguerra massicciamente, e se vediamo che questi sono sempre stati premiati da forti incrementi come succedeva ai tempi di forte inflazione, è molto difficile che poi quello che abbiamo imparato dalla nostra esperienza passata noi smettiamo di farlo. Quindi continuiamo, come il topo di Skinner, a comprare case quando ormai il numero di case è in eccesso, i prezzi sono alti e di quelle case non c'è più bisogno. Cioè sì, noi facciamo le scelte di risparmio come se guidassimo guardando soltanto lo specchietto retrovisore. Questo forse perché, professor Legrenzi, non abbiamo gli strumenti, non siamo capaci di fare un'attenta valutazione anche dei rischi delle nostre scelte. Allora direi di affrontare anche un'altra parola chiave di oggi, che Nicoletta è... rischio. Sentiamo. Dato che le decisioni si mescolano con le emozioni, è impossibile dire se vengono prima le emozioni o i modi di ragionare. Viene prima la decisione di vendere un titolo o il dolore della discesa che ci spinge a quella decisione? In realtà, nella nostra testa, i due fenomeni sono intrecciati. Di qui l'illusione, tipica di chi conosce l'economia ma non la psicologia, consistente nel supporre che, togliendo le emozioni dal nostro cervello, avremo a disposizione una razionalità perfetta. In realtà l'uomo funziona come una macchina. Le emozioni sono la benzina e le funzioni cognitive corrispondono al motore. Se togliete le emozioni, l'auto non va più avanti. Di solito le emozioni sono essenziali perché sono il propellente che ci fa andare avanti nella vita. È soltanto quando abbiamo a che fare con le decisioni sui nostri risparmi che le emozioni ci tradiscono. Ritroviamo analoghe illusioni, basate sul presupposto di una presunta razionalità, nei modi di comunicare con i risparmiatori, allo scopo, anche in buona fede, di preavvertirli dei rischi a cui vanno incontro. Uomo avvisato, mezzo salvato. Cosa stavi dicendo? Monopoli? Su Monopoli c'era rischio o probabilità? Dottoressa Piccinni. Sì, allora... Se lo ricorda il gioco di Monopoli? Sì, sì, certo. Era rischio o probabilità? E in effetti sono due parole che sono da considerare. In abbinamento. Ci metterei anche, infatti, un filo di incertezza, no? Che è cugina in qualche modo del rischio. Naturalmente è un aspetto fondamentale nel processo decisionale, nelle scelte, come diceva prima il professor Legrenzi, in condizione di incertezza è, come dire, l'atteggiamento degli individui rispetto al rischio, che può essere come dire, un atteggiamento o di avversione o di neutralità o anche di propensione al rischio, tanto che ci sono degli stili comportamentali, temperamentali che come dire, definiscono la categoria del risk seeking, che è il termine che definisce appunto l'atteggiamento di chi decide cercando alternative più rischiose, mentre poi ci sono molti individui che invece si basano sull'avversità al rischio, quindi si decide ricercando invece alternative più conservative. Quindi mi scusi, dottoressa Piccinni, spregiudicati o prudenti? Esatto, sì, possiamo anche definirli in questo modo. Sicuramente, se mi permette Nicoletta, il differente atteggiamento delle persone rispetto appunto a questa tendenza, no, diciamo, al rischio, costituisce una fonte di variabilità molto importante nella decisione finale, no? Quindi nel processo che noi in qualche modo intraprendiamo, che è differente da individuo ad individuo e che si basa anche moltissimo sia sulle strutture cerebrali che sottendono naturalmente questo tipo di processo, ma anche sulle caratteristiche di personalità. sugli stili educativi, oppure sul contesto in cui siamo in quel momento, quindi sulla decisione che dobbiamo prendere. Ci sono persone, ad esempio, che rischiano molto in amore, mm-hmm. sono molto prudenti negli investimenti e viceversa. E viceversa, certo. Sì. Tra l'altro, dottoressa Piccini ha introdotto anche un'altra parola chiave, della quale ci occuperemo nella seconda parte del programma, che è incertezza, ma adesso dobbiamo andare... Ai mercati. Che saranno sono... incerti o certi? L'appuntamento è certo. Andiamo a sentire, a tra poco. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Torniamo insieme a Cuore Denari, la finanza comportamentale. Oggi protagonista della nostra puntata è il cervello, che, come stiamo vedendo, guida le nostre scelte di cuore e di denari. Cuore inteso come relazioni, emozioni, capacità di stupirci, e creatività. Denari intesi come denari, perché non ci sono molti sinonimi da poter associare ai denari, appunto soldi e che cos'altro, non so, investimenti, ma comunque di tutto questo. Stiamo parlando oggi con il professor Paolo Legrenzi, che gestisce il laboratorio di economia sperimentale all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa di finanza comportamentale, è uno dei massimi esperti in Italia, e abbiamo anche una nostra psicoterapeuta, la dottoressa Piccini. Non occorre essere stupidi per fare sciocchezze. Professor Legrenzi, è il titolo di un suo libro, prima dell'ultimo che ha scritto, Perché gestiamo male i nostri risparmi. Ma lei ne è certo? I due temi sono anche collegati, perché alcune delle sciocchezze che facciamo gestendo i nostri risparmi sono dovuti a un eccesso di sicurezza delle nostre capacità di vedere il futuro, di controllare le situazioni, e questo eccesso, diciamo, di sicurezza, di fiducia in noi stessi è lo stesso poi che ci conduce a fare sciocchezze. Non è che noi facciamo una sciocchezza perché abbiamo una caratteristica permanente che è essere stupidi, e da questa derivano le sciocchezze. Non è che esistano le persone, diciamo. È che in certe circostanze noi ci mettiamo del nostro, cioè per esempio l'eccesso di fiducia di cui dicevo prima. Il fatto che, siccome le cose nel passato sono andate bene, pensiamo che ci vadano sempre bene anche nel futuro, e allora lì scatta la sciocchezza e poi ovviamente il rimpianto per averle fatto questa sciocchezza. Quindi l'eccesso di fiducia, professore. Sì, l'eccesso di fiducia. L'eccesso di sicurezza ci portano poi a fare degli errori. Poi quando facciamo un errore lo capiamo che abbiamo sbagliato e ci guardiamo intorno con altri occhi, e quindi diventiamo incerti, perché diciamo sbagliamo di nuovo. Ho fatto tutto questo giro perché voglio arrivare a parlare di incertezza, di cui lei parla nel suo libro, professore. Esatto. Andiamo a sentire allora il brano proprio su questo argomento. Che cosa vuol dire trasformare l'incertezza in rischio? In sintesi, significa riuscire a descrivere l'incertezza e a calcolarne le conseguenze. Quando questo è possibile, possiamo ammortizzare l'incertezza del futuro ricorrendo alle tecniche assicurative, che a loro volta sono fondate su un calcolo dei rischi. A questo punto il risparmio diventa sempre più immateriale e quindi articolato e variegato. Si proietta in spazi e tempi privi di confini, essendo depositato nei mercati assicurativi e finanziari. Di questi tempi, la maggior parte delle nostre preoccupazioni quotidiane riguarda nuove forme di incertezza, quelle prodotte dall'uomo e non più soltanto dalla natura. Purtroppo, non tutta l'incertezza è, almeno oggi, riducibile a rischi e quindi misurabile, controllabile e statisticamente prevedibile. siamo incerti forse quando dobbiamo prendere delle decisioni di investimento, siamo incerti anche perché abbiamo di fronte a noi un panorama incerto, che è quello dei mercati, professor Legrenzi, che sono tipicamente imprevedibili, anche se qualche volta sono mossi anche da scosse che addirittura nello spettro delle probabilità che potevamo prendere in considerazione, queste neanche appunto c'erano, no? Quindi qualche volta anche le scelte di investimento si fanno male perché ci sono delle circostanze che proprio non immaginiamo. Come la crisi recente, mi viene di pensare. Non c'è dubbio. Ma premesso che una delle più grandi conquiste intellettuali della nostra cultura e della specie umana è stata proprio la capacità di trasformare l'incertezza in rischio, cioè di misurarlo, bisogna pensare che fino a qualche millennio fa l'unico modo per proteggersi dall'incertezza era inventare l'esistenza di dei. Dopo noi, negli ultimi secoli, abbiamo fatto un progresso enorme, cioè abbiamo tolto l'incertezza della nostra vita. Per esempio, tutta l'incertezza legata agli eventi naturali, tranne casi eccezionali, tipo l'uragano che c'è stato in Europa 3 giorni fa, nel nord Europa, ma normalmente non lo teniamo sotto controllo, neanche ci preoccupiamo di quelle cose. Però, quando finalmente avevamo ridotto tutta l'incertezza legata agli eventi naturali, abbiamo incominciato circa un secolo fa a fabbricare noi stessi incertezza, cioè per esempio creando i mercati finanziari, a creare istituzioni che possono portarci sorprese positive e anche negative. Perché insomma, noi ci siamo dati un po' la zappa sui piedi. Professor Legrenzi. Abbiamo reso anche la vita divertente, perché se non ci fosse incertezza ci sarebbero sorprese negative, ma neanche quelle positive. Chissà che cosa ci aspetta allora, Nicoletta. Ci aspetta quindi un po' di aggiungere sale un po' nella vita, è questo che vogliamo dire, che l'incertezza, con l'incertezza ci dobbiamo misurare quotidianamente, ma l'incertezza ci offre anche delle opportunità, dottoressa Piccini. Certo che sì, Nicoletta. Perché sono i problemi che dobbiamo affrontare che ci fanno crescere, possiamo declinarle così anche le incertezze. Sì, allora credo che l'incertezza sia una condizione che provoca spesso emozioni negative, no? Un filo difficile da gestire, proprio per quello che diceva anche il professore, perché crea qualcosa di nuovo, no? E ha sempre un filo di ignoto dentro di sé. Allora, la scelta perfetta direi che non esiste, no? Di solito, quindi l'incertezza dobbiamo rimanerci un po' e imparare a tollerare l'incertezza, almeno una parte, no? Un pezzo di questo nostro essere, sicuramente è molto più adattativo, è molto più funzionale. Il margine di errore c'è sempre nella nostra vita, ma in fin dei conti, anche se sbagliamo, non è che casca il mondo, no? Quindi bisognerebbe accettare un pochino di più il fatto che esiste sempre una percentuale di rischio e che le cose non vadano come ci saremmo aspettati. Perché, quindi, dottoressa Piccini, essere troppo sicuri non solo ci fa fare degli errori, come anticipava il professor Legrenzi, ci rende anche un po' antipatici, se si può dire. Ma poi toglie un po' anche di poesia, Deborah. Ad esempio, quando si conosce una persona nuova e inizia una nuova relazione d'amore sentimentale, se tu sei troppo sicura dell'altra persona, in qualche modo prima o poi arriva zac la batosta. Professor Legrenzi, lei che dice? Un po' di paura del mistero relativamente all'altra persona bisogna mantenerla, così come nei confronti dei mercati finanziari, dei prodotti di investimento. Senta qua che legame che ho creato. Un professor mostro, Legrenzi. Direi, anzi. Professor Legrenzi. Bisogna distinguere l'errore. È una cosa, la sciocchezza è un'altra. Quando noi diciamo noi stessi, ma guarda che sciocchezza che ho fatto, ce ne accorgiamo, sì, è diverso da quando diciamo ho fatto un errore, perché l'errore spesso è plausibile, non sapevo, non potevo prevedere, è successo qualcosa inaspettato, era molto complicato, non avevo esperienza. Invece la sciocchezza è una cosa che sentiamo che avremmo potuto evitare, e l'origine di questa non è stata nel mondo fuori di noi, ma nel modo di funzionare della nostra testa e soprattutto delle nostre emozioni, di cui alcune abbiamo già elencato: l'eccesso di sicurezza, la non capacità di metterci dal punto di vista degli altri. Questa è una grandissima fonte di sciocchezze. Quindi non c'è, diciamo, l'aspetto dell'ignoranza del mondo, che in fondo può giustificare, come il topo nel labirinto, che è tipico dell'apprendimento per errori. Nella sciocchezza noi avevamo tutti gli elementi per evitarla, eppure l'abbiamo fatta. Molto spesso perché non ci mettiamo dal punto di vista degli altri, cioè siamo egocentrici, questo è un grande altro motore di sciocchezza. C'è un altro, se così possiamo chiamarlo, sentimento che guida le nostre scelte perfette che non esistono, come diceva prima la dottoressa Piccinni, ed è la paura. Sentiamo anche questo brano tratto dal libro Perché gestiamo male i nostri risparmi. Si è soliti dire che due emozioni guidano le scelte degli investitori inesperti. Paura e avidità. In teoria si potrebbe pensare che paura e avidità si compensino sui mercati finanziari. Sempre in teoria, queste due emozioni potrebbero funzionare come un termostato, controbilanciando le scelte di chi ha paura con quelle di chi ama il rischio. Purtroppo, quando gestiamo da soli i nostri risparmi, le forti emozioni, soprattutto l'euforia, la paura e il rimpianto, ci spingono in direzioni sbagliate. Di che cosa abbiamo paura in questi casi? Ovvio, che non si abbia incremento dei nostri risparmi o, peggio ancora, il contrario. Capita così che quando seguiamo i nostri risparmi abbiamo paura quando non dovremmo averla, e cioè nei punti di minimo dei mercati. E non abbiamo paura quando i mercati sono euforici ed è proprio allora che dovremmo averla. Professor Legrenzi, la crisi recente ha spaventato molti risparmiatori, ma in qualche maniera questa crisi è anche un po' figlia di una sorta di avidità. Non c'è dubbio, perché naturalmente noi non abbiamo la capacità di vedere sui tempi lunghi i mercati. Ecco il premio Nobel di quest'anno, Schiller, sì, che ci mostra che sui tempi lunghi ci sono dei valori a cui noi dobbiamo fare riferimento, una sorta di regressione verso la media. E invece noi, per esempio, le bolle che compriamo delle case... Quando i prezzi sono ai massimi, entriamo in borsa. Ma in realtà i prezzi sui tempi molto lunghi tornano su delle medie storiche. Non dovrebbe essere così difficile tenere presente questa considerazione, però c'è un effetto di gregge, sui mercati, per cui quando tutti fanno una certa cosa anche noi ci tendiamo a farla, che tra l'altro è anche questa una fase di sciocchezze. Ed eccoci, siamo tornati insieme, una puntata dedicata ai nostri comportamenti di cuore e comportamenti di denaro. Eh sì, perché il cervello guida le nostre scelte, stiamo procedendo per parole chiave e siamo arrivati alla parola paura. Dottoressa Piccinni, la paura è un po' il motore di tutte le decisioni, ma sappiamo che c'è una paura, tra virgolette, buona, che ci motiva, che ci fa andare avanti, ci fa superare i nostri limiti, e c'è una paura invece che ci intrappola, che ci paralizza. Assolutamente. Possiamo dire intanto che l'esperienza emotiva condiziona moltissimo le nostre scelte. Il valore delle emozioni nei processi decisionali è di fondamentale importanza per il modo in cui noi poi facciamo le nostre scelte e raggiungiamo i nostri obiettivi. Per esempio, molti studi ultimamente, ma da tempo, hanno evidenziato come le persone apprendono sulla base del condizionamento a stimoli avversivi, che è un po' quello che stavi dicendo tu. Quindi la paura che ci blocca, per esempio, e che ci mette nelle condizioni di non affrontare più dei luoghi, delle persone, degli oggetti che tanto ci hanno fatto paura in un determinato contesto. Quindi fino addirittura ad arrivare a comportamenti abbastanza patologici come l'ansia, il panico, addirittura le fobie. Direi che uno degli studiosi che si è occupato moltissimo di questo, Antonio Damasio, che è un neuroscienziato, uno psicologo portoghese, ha studiato quella che è l'identificazione di tutte le aree neuronali, quindi del nostro cervello, implicate sia nei processi emotivi legati alle decisioni, sia naturalmente in quanto le emozioni fungono da spinta eventualmente per i nostri progetti futuri, oppure ci paralizzano e non ci permettono di fare delle scelte che invece avremmo voluto fare. Dunque, questo signore qua pare che sia stato anche fidanzato. A 22 anni, prima di entrare in seminario, aveva la ragazza. Ora io mi sono immaginato la sua ex al telefono con la migliore amica, sai? Dolores, hai presente quello che mi hai detto di mollare perché non sarebbe mai arrivato da nessuna parte? Dolores, per cortesia, puoi accendere per cortesia un po' il televisore? Come, su quale canale? Su tutti i canali del mondo. E magari molti di noi, volevi aggiungere qualcosa, come la ex fidanzata di Papa Bergoglio, stanno rimpiangendo un buon partito, una relazione promettente anche dal punto di vista economico, perché anche quello oggi teniamo in considerazione. E molti di noi si staranno mangiando le mani magari per un investimento che è stato fatto senza valutare i rischi, addirittura in modo spregiudicato. Professor Legrenzi, anche lei associa il sentimento del rimpianto alle questioni economiche, non soltanto a quelle di cuore. Beh, certo, perché qui c'è una grande biforcazione tra il cuore, diciamo, e la razionalità, nel senso che in fondo la persona che ha rimpianto di aver scelto forse il partito non perfetto e così via, può darsi ho sentito un po' di incera fatto, cioè ci stava pensando, sì, anche lei a delle storie, ma quando non sono scelte così impegnative, avere un po' di rimpianto per non aver fatto la cosa giusta è quel motore che dopo, quella spinta, quella motivazione che ci fa stare più attenti la volta dopo. Invece nel campo alcune scelte, di cui tipico esempio sono le scelte finanziarie, sì, noi non possiamo modificare il nostro passato. E in realtà questo rimpianto, queste, diciamo, energie che mettiamo di tipo psichico a rimpiangere qualcosa che abbiamo fatto, sono del tutto improduttive, perché non possiamo tornare indietro il tempo, non possiamo modificare quella scelta, dobbiamo accettare di aver fatto una cosa non perfetta e non trasformare questa, diciamo, scelta che rimpiangiamo in paura di fare altre scelte nel futuro, cioè accettare che qualche scelta va storta e qualcheduna va dritta. Invece l'aspetto patologico della paura è che dopo la paura si trasforma in ansia e ci paralizza. Certo, professore Legrenzi, come a dire, non si piange sul latte versato. Bravissima, si piange, però è molto difficile sa non piangere sul latte versato. Lo dice a me. Chiediamolo anche alla dottoressa Piccini. Chissà quante volte, dottoressa Piccini, lei avrà dovuto sostenere, naturalmente non con un modo di dire come quello che ho usato io, alcuni suoi pazienti che erano intrappolati nel rimpianto o nel rimorso, che sono due problemi diversi ma che spesso si intrecciano. Certo, allora posso ricongiungermi dicendo che sicuramente che il rimpianto è un'emozione, una spinta che motiva a cogliere sicuramente delle opportunità nella vita, ma nello stesso tempo, se supera determinati confini, è un sentimento molto doloroso che ci spinge anche a livello rimuginativo ad andare troppo indietro, no? Per esempio, quindi ripercorrendo tutte le decisioni, tutti gli aspetti che avremmo potuto fare in modi diversi da quelli invece che abbiamo affrontato, mettendoci nella condizione di non rischiare più, come diceva prima il professor Legrenzi, quindi non solo negli investimenti ma anche nelle scelte quotidiane, può essere una spinta, come però, se non gestito bene, naturalmente un blocco un andare avanti ma un ritornare completamente indietro. Questo negli aspetti depressivi, naturalmente nelle perdite, nei lutti, è un aspetto fondamentale che va poi invece trattato in terapia, proprio perché la persona non riesce più da sola a riemergere da questa situazione. Volevo fare un'altra domanda al professor Legrenzi, che nel suo libro affronta anche il tema del dolore legato ad una perdita nel settore degli investimenti. Addirittura chi fa un investimento sbagliato può pentirsi fino al punto di provare un vero e proprio dolore? Non caratterizza solo investimenti, perché il lutto esiste. Il lutto dal punto di vista di un economista è razionale, perché lei già ha perso una cosa, poi perde tempo, emozioni, investimenti cognitivi, affettivi, ad accettare quella cosa che ha perso e che ha perso irrimediabilmente. Quindi apparentemente sembra un mistero il fatto che esista il lutto, che esista quindi anche il rimpianto. Però è una cosa inevitabile e che a suo tempo è stata costruita dall'evoluzione della specie dentro di noi, dentro il nostro cervello, perché nel complesso è un meccanismo positivo. Naturalmente nel caso invece dei risparmi, questo tipo di meccanismo ci porta a fare risparmi che non ci fanno mai lutto. Vede, perché gli italiani hanno tantissime case? Un po' perché non hanno preparazione economica e finanziaria, ma anche perché delle case noi non conosciamo i prezzi, in buona sostanza. Non conosciamo il prezzo di casa nostra. Certo, il prezzo è quello che diamo noi, ovvio, perché seguiamo la moda, perché leggiamo i giornali. Da un punto di vista psicologico è il migliore investimento possibile, non finanziario, ma dal vista psicologico la casa è il migliore investimento possibile, perché non ci fa mai paura, non ci fa rimpianti. Certo. Elimina tutte queste emozioni negative, non ci fa incertezze. Stiamo... E questo, E questo spiega l'assetto poi finale dei nostri risparmi. Stiamo andando adesso verso la conclusione della prima parte del nostro programma, ma con entrambi i nostri ospiti di questa mattina vorremmo stilare un piano antirimpianto dal punto di vista economico, dal punto di vista emotivo. Quindi, come dire, fissiamo alcune regole. Ci dà, dottoressa Piccinni, la prima a cui facciamo questa domanda è lei, ci dà una ricetta semplice per evitare di piangere sul latte versato, di intrappolarci nel cosiddetto senno di poi? Allora, sicuramente vivere il presente momento dopo momento, cercando di fare attenzione a quello, alle emozioni, alle sensazioni che esso ci dà, però oggi nella giornata quotidiana, prendendo come spinta a una nuova opportunità di vita, naturalmente dalle piccole cose della vita quotidiana, da un sorriso di un'altra persona che incontriamo alla mattina appena ci alziamo, da un complimento fatto estemporaneamente dal barista di turno dove andiamo a bere il caffè, ecco, fermarci su dei piccolissimi pezzi della vita che ci circonda per riprendere a funzionare. Questo è un primo consiglio sicuramente che posso dare. Professor Legrenzi, l'ultima anche da lei vogliamo. Il terapeutico che do io è il seguente: siccome il mondo è complicato e complesso, quante volte andiamo indietro e autoesaminiamoci, prendiamo consapevolezza dei nostri meccanismi, quante volte una cosa che sul momento ci è parsa una grande, diciamo, tragedia, oppure una grande tragedia, una grande problematica, irrisolvibile, insormontabile. Dopo in realtà si è rivelata una cosa positiva. E quante volte invece quello che si è rivelato, che pensavamo fosse un grande nostro successo, si è rivelato negativo, che il mondo è molto complicato. Quindi avere la capacità di autoesaminarsi e rendersi consapevoli che l'incertezza fa parte della vita e fare un po' come Rossella Ara in Via col Vento. Bella, mi piace. Domani è un altro giorno. L'altro giorno, ecco, questo ottimo è il consiglio che io do. Eccoci ritrovati insieme per questa puntata speciale di Cuore e Denari. Stiamo parlando di quei sentimenti o quelle ragioni che guidano le nostre scelte in ogni campo, da quello economico alle relazioni. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Monica Piccinni, abbiamo parlato di rischi, di incertezze, di paure. Non possiamo fare a meno, dottoressa Piccinni, di parlare anche di quella sottile paura che invade i nostri pensieri, che si fa sentire anche nel nostro corpo, che noi chiamiamo generalmente con un unico termine, ansia. Ne parliamo tra poco. Ascoltate, per il mese della digestione, Uliveto a soli 39 centesimi. Prezzo consigliato. Vi presenta Essere e Benessere. Dottoressa Piccinni, l'ho definita sorella della paura. In genere noi non riusciamo a distinguere in modo chiaro l'ansia dalla paura, non sono la stessa cosa. Dottoressa Piccinni. No. Allora, direi che è fatto bene a distinguerle, sono cugine, forse non sorelle, ma comunque si appartengono, nel senso che la paura è l'emozione primaria di tipo adattivo che ci spinge nella vita ad emettere determinati comportamenti molto, come dire, funzionali, molto primitivi, no? Pensiamo all'uomo della pietra che, come dire, aveva paura del fuoco e che quindi non lo toccava, no? Aveva preso il comportamento di, certo, non andargli addosso. Naturalmente l'ansia è ciò che supera questo aspetto della paura, nel senso che la paura poi determina una condizione che a livello più anche neurofisiologico ci dà dei sintomi specifici come quelli della tachicardia, della sudorazione eccessiva, della respirazione affannosa. Insomma, dottoressa Piccinni, se la paura è una sorta di campanello d'allarme, l'ansia è come se questo campanello continuasse a suonare. Esatto, sì, assolutamente. E direi che, se posso aggiungere questo, ci sono dei segnali che dal corpo raggiungono dei circuiti speciali nella nostra mente, tra cui per esempio il circuito emotivo legato all'amigdala, che è una regione specifica del nostro cervello, che è deputato proprio alla loro regolazione e alla rappresentazione, come dire, nello scopo di guidare le nostre decisioni e i nostri comportamenti, sicuramente in maniera implicita. Dottoressa Piccinni, sa che c'è anche la donna di Denari in questa trasmissione, le volevo chiedere appunto quanta ansia genera, almeno tra le persone che le capita di incontrare, il tema soldi, il tema denari? assolutamente molta in questo momento di crisi, direi ancora di più, perché è una lotta continua e naturalmente una ricerca della sussistenza per alcune persone quotidiana, e per altre invece, come dire, una sorta di lotta e di andare nella direzione dell'investimento sempre più elevato, e questo produce ansia, naturalmente produce tensione che a volte non ci permette di guardare bene al nostro futuro e di fare le scelte opportune. Quindi ansia quando questa non è, diciamo, giustificata dalla situazione contingente, ma magari non da particolari situazioni appunto individuali. E l'ansia genera degli errori, ci porta a fare degli sbagli, professoressa Piccinni. Sì, a volte ci porta proprio a fare degli sbagli, ma gli sbagli sono perché questa discrepanza tra un livello soglia, diciamo, che è l'ansia adattiva, no? Quella che sperimentiamo tutti nella nostra vita quotidiana e che ci dà anche la spinta per mettere in atto naturalmente i nostri comportamenti e per raggiungere i nostri obiettivi, diventa eccessiva e quindi non fa altro che arrivare al nostro cervello con un allarme che in quel momento ci fa fare tilt e noi sbagliamo a comportarci. Certo. Oppure ci irrigidiamo sui nostri comportamenti e non riusciamo più ad emettere delle soluzioni più adeguate. Anche perché solitamente l'ansioso vuole tenere tutto sotto controllo e anche questo genera fattore di stress. Esatto, ed è a rischio di errore. Come si suol dire, il cane che si morde la coda, no? Dottoressa Piccinni, grazie per essere stata con noi. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata. E noi rischiavamo di fare un errore. Eh sì, in questa puntata rischiavamo di non parlare del nostro secondo cervello. Però non sbagliamo, perché ne parliamo oggi insieme al dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Buongiorno dottor Speciani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Le stavo dando del voi, buongiorno a lei dottore. Salutavo io tutti gli ascoltatori e lei, quindi mettendovi tutti insieme. Mi sembra giusto, va bello anche così. Ma questo succede a volte, ad esempio, quando ci sono delle condizioni che si parla, noi parliamo di secondo cervello, perché è vero che esistono delle connessioni tra l'intestino, quello che si mangia e le modalità di comportamento. Però c'è uno degli elementi più semplici che a volte la gente non riesce a considerare, che è quello semplicemente delle variazioni di zucchero indotte proprio dal come andiamo o in ipoglicemia o in iperglicemia, con delle modalità che ci impediscono poi di funzionare in maniera corretta. Io lo devo dire francamente, ma se penso che un pilota mi guidi l'aereo e che rischi di andare in ipoglicemia, un po' mi dispiacerebbe, no? Cioè, come idea di fondo. Quindi tutto quello che noi introduciamo influenza il nostro benessere, ma soprattutto influenza anche le relazioni che ci sono tra primo e secondo cervello. Il cervello, il secondo, che è il nostro intestino, parla al cervello che è in alto, al cervello cerebrale, e si parlano e prendono delle decisioni sul nostro benessere o sul nostro malessere. Quindi quando si dice prendere una decisione di pancia, non è l'istinto ma è proprio l'intestino che le prende? Ma direi questo è un po' eccessivo dire che parte l'intestino in questo senso, però più che distinguerli, io li vedo sempre come un elemento assolutamente associato uno con l'altro. Proviamo a pensare dal punto di vista evoluzionistico cosa significa questa pancia, questo intestino. Ma caspita, ma il rapporto con l'energia? Uno può anche pensare di voler fare delle cose e dice, i muscoli, ma se non c'è l'energia regolata che ti consente di poter utilizzare l'energia che stai introducendo con i cibi, con gli alimenti e con le sostanze che sono correlate con il contatto con gli alimenti, tu puoi pensare quello che vuoi ma poi non funzioni. Quindi io li ho sempre pensati, questo è un po' nel mio lavoro che lega un'immunologia della nutrizione oggi, il fatto che il mangiare, il modo in cui mangiamo, il modo in cui pensiamo sono intimamente correlati. Prendiamo ad esempio uno dei temi che spesso abbiamo discusso gli ascoltatori di Radio 24, questo lo conoscono perché noi parliamo spesso dell'importanza della prima colazione. Ecco, al di là dell'introduzione di sostanze, di calorie, questa cosa scatena immediatamente a livello di pancia degli elementi che producono degli ormoni, uno è la leptina, ad esempio, che sono dei segnali di ricchezza. Caspita, questi arrivano al cervello e a quel punto il cervello inizia a ragionare secondo un criterio di possibilità di consumare l'energia. Significa mettere in moto la propria capacità vitale. Se in realtà questo messaggio non arriva, il cervello ragiona in dipendenza e dice: ma io sono povero, non posso fare niente, e smette di fare delle cose. Chi vince qua? Il cervello numero uno o il cervello numero due? No, cioè, proviamo a ragionarci francamente. Allora, è chiaro che in una condizione di questo genere andiamo immediatamente a ragionare sul fatto che ci possono essere delle interazioni costanti. Noi viviamo, per fortuna funziona tutto, è come in una come fai a dire, quando dai una carezza ad una persona che è solo la mano che la tocca? No, c'è dentro tutto un insieme, no? Ci sono cose che si mischiano una con l'altra, e lo stesso avviene anche nella regolazione delle sostanze, delle citochine di comunicazione. Quindi, dottor Speciani, non facciamolo irritare questo secondo cervello, regaliamogli, assicuriamogli benessere, in modo che mandi dei messaggi chiari al primo cervello e i due lavorino in coppia, sotto braccio, dottor Speciani. Quindi, che come facciamo a fare star bene il nostro secondo cervello? Come facciamo? Come facciamo? Una cosa l'ho già detta. Certo. Il fatto di poter fare una prima colazione ha un significato sempre, perché inizia a regolare. Io devo dire, una prima colazione è sensata, anche quando si dovesse fare una giornata di controllo magari di tipo calorico, cioè uno dice: ma io oggi devo mangiare meno di quello che mi aspetto. Beh, la prima colazione rimane davvero un momento cardinale, perché evita di far partire dei messaggi negativi. Poi ci sono altri aspetti che sono, ad esempio, quelli della masticazione completa, e qui è un altro degli aspetti legati proprio all'evoluzione, cioè questo secondo cervello. Nel nostro intestino, quindi in una delle profondità nostre più importanti, devono arrivare delle sostanze che non sono più pollo, mucca, maiale, frumento, eccetera, e devono diventare aminoacidi che noi utilizzeremo per la nostra energia. Eppure, quante volte la gente lo vede al ristorante, guarda in giro, e c'è gente che ha dentro tre trenini di forchettata in bocca, che non gusta assolutamente nulla e che quindi in realtà ingoia delle cose assolutamente non masticate o non digerite. Poi ci sono dei farmaci che un pochettino questa cosa la complicano ancora. Ci sono questi farmaci che proteggono teoricamente lo stomaco, che però impediscono l'acidità. E quindi la gente non digerisce. Certo. E quindi si trova con maiali, mucche, campi di grano, mezzo la pancia, che lì non ci dovrebbero stare. Queste cose sono dei segnali di pericolo ancora, e lì scattano dei meccanismi di tipo infiammatorio reattivo, per cui non è solo il fatto di avere la pancia gonfia, è che uno è irritato, come se tu avessi uno scarafaggio di fianco al letto mentre... Mamma mia, dottor Speciani! Che immagine, senta, si fermi lì con queste sue regole, che sono tutte molto interessanti, ma io mi chiedo, ognuno di noi è molto diverso, e quindi queste regole che lei ci ha indicato vanno bene per tutti, sono uguali per tutti, oppure ognuno deve anche imparare a cogliere dei segnali particolari del proprio corpo per capire se queste regole non vanno bene? E poi mi chiedo anche, professor Speciani, l'acqua quanto è importante? Allora, sul piano delle regole, io sono assolutamente dell'idea che le regole sono variabili, che per fortuna abbiamo delle individualità. Noi stiamo lavorando dal punto di vista scientifico proprio sulla definizione di quelli che definiamo in inglese i personal profiles, cioè le caratteristiche individuali di ciascuno. E quindi questo dipende, perché ognuno avrà i suoi cibi buoni, i suoi cibi cattivi e così via. È come negli investimenti, non tutti i prodotti di investimento vanno bene per tutti, ha visto che similitudine che abbiamo trovato? Bella, questa è proprio, siamo insieme, stiamo lavorando sulla stessa linea d'onda, va bene, però abbiamo effettivamente delle regole legate al concetto evoluzionistico, cioè il fatto che uno svegliandosi abbia un contatto col cibo che gli dice: guarda che c'è qualcosa che è collegato con l'energia, è un dato sicuramente rilevante. Poi è vero che invece individualmente ognuno andrà a scegliersi anche modalità, orari, tipi di cibo e tipi di alimenti in maniera diversificata. Per quanto riguarda l'acqua invece, dottor Speciani… Questo stavo toccandola, e come tema è fondamentale. Io vedo arrivare delle persone in studio da me, e la prima cosa che si vede è questa pelle asfittica, ma non solo quella del viso, perché poi più o meno uno si tocca. La risposta classica, quando dico: ha la pelle un po' secca, non ho messo la crema stamattina. Dico: no, guardi, adesso le spiego che non è solo un problema di cremine da mettere, ma è la possibilità di miscelare, di avere a disposizione. Certo. Effettivamente. Dottor Speciani, ma molti dei nostri ascoltatori ci si chiederanno che cosa c'entra l'acqua con il ragionamento, con, perché la relazione tra secondo primo cervello. Certo, possiamo pensare che anche l'intestino abbia bisogno di acqua, ma pensare che ne ha bisogno soprattutto e anche il cervello, questo magari ci sfugge, dottor Speciani. Ci illumini a proposito di cervello? No, non vi illumino. Sul cervello è assoluto e torna, ad esempio, il fatto che possa partire un meccanismo di connessione con le sostanze presenti nei cibi, e se queste non sono diluite, quindi in grado di essere riconosciute dai nostri recettori, io non dico del cervello secondo, sì, però su quelli che sono effettivamente nella nostra pancia, ma passano inglobati all'interno di pezzettini di cibo ristretti, questo non succede. Molte delle sostanze che sono di riconoscimento di segnale sono idrosolubili, quindi se non abbiamo questo tipo di meccanismo difficilmente riusciamo e a recepire quelle che arrivano e a trasmetterle come segnale amico o nemico o di avvertimento al resto del corpo. Sebbene che ognuno di noi sappia che in realtà non sta nutrendo solo la propria pancia, la propria fame, ma sta nutrendo globalmente proprio tutto il proprio essere. Insomma, Deborah, è tutto chiaro. Chiarissimo. Secondo e primo, idratati. Bello, secondo cervello e primo cervello vanno a braccetto, aiutiamoli. Sì. Dottor Speciani, buonissima giornata. Grazie. Buona giornata anche a voi. Buon lavoro, a presto, e anzi buon primo novembre. Anche e tanti auguri anche al dottor Speciani, perché ci sarà Sant'Attilio. Ci sarà senz'altro. Certo, c'è, ma c'è. Non se lo ricorda nessuno, perché è vicino a San Pietro Paolo il giorno prima e tutti fanno gli auguri lì, no? Che sono più... Invece Attilio, però va bene anche tutti i santi, me benissimo. Lo prendo. Ottimo, come per il mio, dottor Speciani, perché Deborah lo festeggiamo oggi. Grazie, buona giornata. Invece Santo Stefano c'è per il prossimo ospite. Santo Stefano c'è ed è il 26 di dicembre. Sì, su quello siamo certi. Buongiorno al professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari all'Università Cattolica di Milano. Professore. Sì, buongiorno Nicoletto, buongiorno Deborah. Buongiorno. Sono per fortuna ancora umano, non ancora santo, però ce la sto mettendo tutta. Ci lavori un po', che vedrà che le darà soddisfazioni questo percorso. Venga più spesso a cuore denari. Professor Tirelli. Si santificano quelli che passano di qua. Professor allora. Tirelli. Insieme a lei vorremmo scoprire come possiamo incrementare e mantenere ben salda l'amicizia e l'alleanza tra secondo cervello, il nostro intestino, e primo cervello. Anche la medicina tradizionale cinese ha dei suggerimenti a questo proposito e da millenni racconta che tra i due cervelli esiste una relazione molto stretta, si influenzano reciprocamente. Sì, devo dire che praticando da quasi 20 anni, insomma, anche questo tipo di medicina, mi stupisco sempre di come l'antica cultura cinese abbia già nel passato, si parla di 4.000 anni fa, capito certe cose. Per esempio, l'attività dell'intestino tenue veniva associata alla capacità del discernimento, quindi sia fisico, ciò che è utile tenere, ciò che è utile lasciare, e sia mentale, quindi ciò che spesso nell'arco della nostra vita ci viene proposto di tenere, di lasciare, decidere una cosa, decidere l'altra. Questo proprio a carico dell'intestino tenue. Tant'è che ci sono poi degli esercizi particolari che vorrei magari suggerire. L'altro intestino, l'intestino crasso, invece sempre veniva già allora associato alla capacità di relazione con l'esterno. Vedi. Quindi un impatto emotivo, mentale, di relazione, quindi capacità cognitive, capacità di relazionarsi con le persone, con l'ambiente. E devo dire che questa è una cosa molto molto importante, che anche con degli esercizi, tra l'altro fisici, possiamo incrementare e, per così dire, armonizzare, proprio perché, come sappiamo, ci sono delle digitopressioni che possono migliorare la funzione anche intestinale. Digitopressioni, quindi, ribadiamo il termine. Pressione con la dita, le dita. Facile. Sì. Sì, sì, e poi sugli stessi punti dell'agopuntura che i medici stimolano ovviamente con gli aghi. Ma poi ci sono degli esercizi che attivano sia i muscoli sia i visceri. E noi andiamo a farne subito uno. Esatto, no, ma ci dica esplicitamente quello che serve a favorire il benessere dell'intestino in modo che questi, l'intestino 2, influenzi, che questo influenzi positivamente il cervello 1. Ecco, innanzitutto noi sappiamo che è necessario parlare di interazione psicofisica, e quindi già questo ci dice che se facciamo degli esercizi quotidiani interagiamo positivamente sia su un aspetto che sull'altro. Allora, il primo esercizio che suggerirei di fare è molto semplice. In posizione eretta, quindi in piedi. Provo, Deborah, guardami. No, ma vada. Si sta alzando veramente a farlo. Vada, professor vada. Tirelli, prosegua. E io controllo allora. Se lo fa bene, dall'alto della mia esperienza, ovviamente. Mi dica. Porto le mie mani verso dietro, quindi verso la schiena. Le porto e unisco, incrocio le dita. Incrocia? Bene? Sì, già le stava mettendo dietro il collo, ma l'ho fatta subito, l'ho fatta subito aggiustare. Poi che cosa deve fare? Ok, quindi più o meno verso la zona lombare. A quel punto cosa faccio? Con gli indici, ok? Indico proprio verso il suolo, verso incredibile. Il terreno. Quindi mantengo le dita incrociate, ma sono solo le due dita, gli indici proprio, che indicano verso... A quel punto che cosa faccio? Fletto il busto verso avanti, mantenendo però sempre le dita tra di loro incrociate. Cosa sento? Sentirò un allungamento muscolare delle spalle, un allungamento muscolare delle braccia, fino ad arrivare a un allungamento proprio muscolare delle mani. Sto attivando dei muscoli e il canale energetico proprio dell'intestino crasso. Le assicuro che Nicoletta lo ha fatto benissimo questo esercizio, adesso testerò se i benefici sono arrivati. Ecco, ma siccome stiamo andando verso la conclusione, mi tirano le gambe, però allora hai fatto male. Qual è il beneficio qual è il beneficio che dovrebbe scaturire da questo esercizio? Allora, questa attivazione migliora la capacità della funzione del secondo cervello, quindi dell'intestino crasso, ma funziona anche perché migliora la percezione in termini di vitalità anche mentale. Quindi, è una cosa che bisogna fare per 30 secondi e non di più. Professor Tirelli, quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e con questa così. E con questa possiamo lasciarci per questo primo novembre di suggerimenti assolutamente eccezionali per i nostri ascoltatori. Grazie professore. Grazie mille. Grazie, buon primo voi, novembre anche a lei. E noi abbiamo tirano le gambe. Però. Vedi, però sei molto intelligente da qualche istante a questa parte. Per cui adesso con tutto questo mare di intelligenza possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. Andiamo a dare l'appuntamento a lunedì prossimo con Cuore Denari, come sempre puntuali alle 11. Non ridete, in regia. Un saluto da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. A presto.